Siamo con Piero Cannizzaro, regista del documentario Ritorno a Curumuni e anche di Tradinnovazione, una musica glocal Salento, che saranno all'interno della rassegna Il ritmo e il battito della pizzica tarantata, rievocazione storica dell'antico rito del tarantismo. Alla quinta edizione, una rassegna di musica, danza e cinema sui temi del tarantismo a Galatina, provincia di Lecce, dal 25 al 29 giugno. Piero, ben ritrovato. Ciao a tutti, buongiorno, ciao Federico, ogni tanto ci si Ogni sente. tanto ci si sente. I tuoi saranno in programma la prima giornata, lunedì 25 Esatto. giugno, ce li presenti entrambi? Sì, in realtà sono due più una sorpresa, ma la sorpresa la facciamo, insomma, la sorpresa la posso fare, Roma si può fare. Comunque, primo è Ritorno a Curumuni, che è un documentario, intanto è una rassegna di miei documentari salentini. Io mi sono occupato abbastanza di Salento, circa 10 anni, già dal lontano 1999, insieme a Edoardo Whisper, che tra l'altro sarà il giorno dopo, martedì, con la sua pizzicata nella rassegna. E quindi, ecco, ho iniziato molti anni fa, e invece quindi abbiamo fatto una selezione, diciamo, di tre documentari. E il primo che proietteremo appunto lunedì, il primo è Ritorno a Curumuni, che è una storia, tra virgolette, minimalista di una persona, Luigi Criati, che si è ripossessato delle proprie terre che aveva, che erano, insomma, di famiglia, e che poi avevano perso, e sono delle vecchie pagliare, e da lì ormai da molti anni fa una festa come si faceva un tempo tra le pagliare, cioè i pagliare nel Salento sono, diciamo, una forma, virgolette, grezza, mi perdoni i salentini, diciamo, dei trulli, erano, diciamo così, insomma. E quindi là si svolge un primo maggio salentino, e io ho avuto la fortuna di frequentare il Salento in quegli anni, e quindi ho girato questo documentario, che è una festa che inizia la mattina e finisce la sera. E tra l'altro ci sono personaggi molto conosciuti nel mondo salentino, da Enza Pagliara, la simpatichina, che adesso è in auge perché è stata quella che ha accompagnato Giovanna Marini negli anni 60 nel Salento. Poi c'è Antonio Castrignano, che è quello che ha fatto anche le musiche del film di Crialese. Insomma, vari personaggi che poi sono però tutti visti in una forma minimale, cioè mentre suonano, mentre ballano, in una festa molto, molto, mi viene da dire, molto spontanea. Ecco, in realtà adesso è molto cresciuta, quindi adesso non si può più andare come sono andato io con la telecamera ormai più di 10 anni fa, perché adesso ormai è diventata una festa così, diciamo, molto seguita, importante. Allora era proprio agli albori, e questo è un po' quello che mi piace del mio lavoro, così come quando avevo fatto il primo documentario della Notte dell'Atalanta, quando ancora la Notte dell'Atalanta non era così televisiva, diciamo così. Va bene, chiuso appunto. Il secondo documentario è Tradinnovazione, che ho girato qualche anno dopo, che è appunto Mentre Ritorno a Curumuni mette l'accento su, diciamo, l'aperto unplugged, cioè l'acustico, cioè sono proprio i musicisti che cantano o a cappella o solo con la chitarra, o col tamburello, o con la fisarmonica, mentre tra l'innovazione vediamo il canzoniere Grecanico Salentino, che ormai è un gruppo internazionale, è diventato gli Officina Zoé, mi vengo poi Anna Cinzevillani. Ecco, questo è un altro documentario che ho girato, che tra l'altro fa parte della trilogia del viaggio che ho fatto tra Salento, Sardegna e Piemonte, ma qui proietteremo solo la parte del Salento. Dopodiché ci sarà Storie di pietre, che è una parte dei ritratti salentini di un personaggio, un poeta che parla con le pietre, un Salento pieno di muretti a secco, di pagliare, da pietra e dolme e menhir. È un personaggio che in maniera poetica parla col suo territorio. Allora, ricordiamo questo triplo appuntamento lunedì 25 giugno all'interno del Ritmo ed il Battito della Pizzica Tarantata. una rievocazione storica dell'antico rito del tarantismo, quinta edizione, rassegna di musica, danza e cinema sui temi del tarantismo a Galatina, provincia di Lecce, dal 25 al 29 giugno, il lunedì 25 giugno con Piero Cannizzaro con Ritorno a Curumuni, tra di innovazione una musica gloca al Salento e ritratti dal Salento, storie di pietre. Piero, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto e in chiusura lasciaci tutti i riferimenti per saperne di più sul web. Ah certo, viva il lupo, grazie, a presto, e poi comunque insomma se cercate Galatina Club UNESCO, perché è patrocinata dal Club dell'UNESCO, penso che si trovi, poi dopo però ti mando il link. Perfetto, a presto Okay. Piero, Grazie ancora, a ciao. presto, ciao.